Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, eccoci qua, buongiorno. Eccoci qua in questo 9 giugno, il giorno del lanciafiamme. Ops, no. Lanciafiamme. Chiamate i pompieri. Vabbè, questo poi capirete perché se non avete visto i giornali stamattina. Comunque, i santi del giorno, nessun santo che evoca pompieri, quindi che la incendi, però insomma. Santi un po' così, come devo dire, la classica giornata che ci fa capire quanto sia complicata la sedimentazione dei santi. Sant'Efrem, per esempio. Bah, Sant'Efrem, dottore della chiesa in Iraq, terzo secolo, ne sappiamo in realtà molto poco. Oppure San Columba di Iona, anche chi? un monaco irlandese del settimo secolo, sai che bisognava accontentare un po' tutti nel calendario chirurgico. Chirurgico, c'ho la testa ancora sulla nascita. Esatto, sulla nascita di tua figlia. Col parto cesareo. Niente, non ne esci più. Lo so, abbiate pazienza, cari ascoltatori. Oppure, che ne so, Santa Madrun, figlia e sorella di re gallesi, ne sappiamo praticamente nulla. Secondo però è un po' te l'inventi. I santi di oggi, Madrun, oggi per esempio c'è Santa Tecla. Pensa, cioè, abbiamo 13 sante Tecla, tutte vergini e martiri, e non sappiamo praticamente quasi nulla di nessuna di loro. Boh, comunque, detto questo, oggi invece festeggiamo un po' di cose serie. Per esempio, nel 1537 Papa Paolo III disse: oggi gli indiani sono esseri umani. Che all'epoca, come capisci, non era proprio così facile, perché eravamo arrivati in America nel 1492. Ma io voglio ricordare oggi una cosa che non ricorda nessuno, perché oggi è morto nel 1958 un cagnolino. E cioè, perché un cagnolino? Perché questo cagnolino, nel paese di Luco del Mugello, per 14 anni, tutte le mattine, andò alla fermata dell'autobus ad aspettare il suo padrone, che era morto sotto un bombardamento nel 1944. Questa vicenda, che è accaduta in Italia, io quando mi sono imbattuto per la prima volta da ragazzino me la ricordo sempre. E quindi hai preso 5 gatti. È morto in questo caso. Era l'anniversario. Hai preso 5 gatti. Ho preso 5 gatti. I cui nomi ci devi ricordare. Cani. No, dai, Lolo, Lulu, Ragù, Lola. Artù. E Lola. Oh, ti sei dimenticato. È un test che faccio ogni volta. Oggi la giornata dell'unità razziale negli Stati Uniti. E pensa, è la giornata internazionale degli archivi, una di quelle giornate che uno riempie e proprio dice: ma perché? Della burocrazia. Degli archivi. E quindi il nostro amico Celotto sarebbe felice, esatto, di farci un'intervista. E anche la giornata del lanciafiamme. Del lanciafiamme. Vabbè, ma ti ha stupito perché Renzi, guarda creativo, che il primo a essersi stupito ieri da Lilli Gruber è stato lo stesso Renzi, che ha detto lanciafiamme e poi si è un po' frenato. Sentiamo qua. Non è che qui c'è la bacchetta magica, cioè, no, io certo, ho grande autostima, ma non è che prendi e cambi metodi che sono vecchi di anni. Piano piano ce la facciamo. Non abbiamo avuto abbastanza coraggio? Le garantisco che c'entriamo con lanciafiamme da dopo il ballottaggio, questo è sicuro. Noi nel partito c'entreremo per motivi, perché ho cercato fino all'ultimo di tenere tutti buoni, tutti, tutti insieme. Alla fine arriverà il lanciafiamme di Renzi. Ma no, non è che lanciafiamme, è che bisogna avere un po' di cambiamento. Ma vedi che poi vedi, ma quello, no, ma quello che è cambiamento, sì, è che non c'è neanche mai l'ombra lontana, remota in qualche modo, di un atomo, di un neurone, di un cazzo di autocritica in quest'uomo. Epa, sono sempre gli altri colpevoli, lui non sbaglia mai. Fantastico averne un centesimo di questa autostima. L'Italia andrebbe forse, non so se meglio, è pazzesco. A me questa cosa un po' mi colpisce, perché ha del... No. Vabbè. Sono gli altri sempre che sbagliano. Il lanciafiamme. Chiameremo i pompieri, caro Oscar. Chiameremo i pompieri. Ma forse anche qualcos'altro. Perché qui ci sono che dei cosa? Segni. Ah, lo so, c'è un patologo. No, dai, non esagerare. Ma non esagerare. Viva Davigo invece che dice in un convegno di giudici a Milano che le nomine ai vertici fatti dall'NM e CSM sono degli immondi scambi impropri di influenza come quelli politici. Poi, naturalmente, si è dovuto sbagliare. mentire, però Davigo ha detto la verità. Fanno una nomina di qua, una nomina. Avercene le trascrizioni telefoniche delle loro nomine, sarebbero diverse da quelle dei politici. Dove? Quando? Su, un po' di verità. Oh. Va bene, caro Oscar, io settimana prossima me ne vado in ferie, questa è la novità e quindi ti lascio, ma ti vedo bello caldo, bello pronto, bello preparato. Può essere che qui mi portano a me via col PS obbligatorio. No. Allora, scherzi, però l'esa maestà per il premier, guarda che arrivano i carabinieri in 5 secondi con, ecco, con lanciafiamme, ci sarà il nuovo corpo di vigili lanciafiamme. Caro Oscar, noi oggi ci attireremo un bel po' di critiche, lo sai? È una giornata particolare perché abbiamo gli ospiti straordinari. Eh sì, però ci attireremo un po' di critiche. Già un po' ce ne siamo attirati. Come vedi, noi non ci tiriamo mai indietro. Annunciando l'ospite, gli ospiti di oggi, già su Twitter qualche critica è arrivata. Allora, oggi parliamo di doping. Parliamo di ciclismo, ma doping, se volete sport, nel giorno in cui è stata squalificata la Sharapova. 2 anni di squalifica. Penso, oggi è l'anniversario, c'era Merckx che vinceva per il suo quarto Giro d'Italia, esattamente oggi mi sono andato a vedere. Oggi. E noi qui abbiamo infatti in studio, ci è venuto a trovare una persona che il Giro d'Italia l'ha vinto, era il 2007 se non sbaglio, si tratta di Danilo Di Luca, ciclista professionista. Buongiorno Danilo e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, Danilo Di Luca, 40 anni, nel 2007 ha vinto il Giro d'Italia, ha vinto tante altre gare, però detiene un altro record di cui credo non sia ben contento. È l'unico ciclista italiano che è stato radiato per doping, cioè squalificato a vita. Sì, squalificato a vita dopo la seconda positività nel 2013. E il CONI, la procura antidoping del CONI, mi ha radiato a vita per doping. Allora, Danilo Di Luca ha scritto in un libro la sua storia, un libro che sta avendo anche molto successo. Lo ha scritto insieme ad Alessandra Carati, che è qui con noi. Buongiorno Alessandra, benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno. Il libro che è edito da PM si intitola Bestie da Vittoria. Bestie, questo, sì. Insomma, credo che nel sostantivo ci sia già la scelta per far capire, no? Che cosa si chiede, non sono loro che le chiedono, cosa si chiede agli animali di fare, esatto, a certi fini. Perché tra l'altro il sottotitolo è questo: nel ciclismo tutti sanno la verità, ma la verità è inaccettabile. È quel tutti sanno la verità che ci incuriosisce un po', ci anche inquieta. E che inevitabilmente a quel punto espone anche le critiche. Non mi stupisco affatto che se abbiamo fatto la scelta oggi di sentire loro in studio, perché ovviamente è abrasivo, è deliberatamente abrasivo. Eh sì. Danilo, qual è la verità che tutti sanno e nessuno dice nel ciclismo? Ma la verità è che comunque c'è, questo è un libro denuncia, è un libro contro il sistema, non contro i ciclisti, perché comunque tutti sanno la verità, nel senso che per arrivare comunque a competere a certi livelli si fa anche uso di doping. Sicuramente il doping è una componente, ho sempre detto che il doping ti dà da un 5 a un 7% della prestazione. Quindi a parte questa piccola componente il resto sei tu. Devi avere oltre il 90% di tuo. Sei tu, tu che nasci magari più forte di un tuo collega, tu che ti alleni meglio, tu che fai sacrifici di alimentazione, allenamenti, la vita, come si dice nel gergo ciclistico, la vita dell'atleta e tutto questo fa sì che poi riesci anche a vincere delle gare più importanti e quindi il libro, il titolo nasce proprio da questo, Bestie da Vittoria, perché fondamentalmente da parte del sistema che non funziona e che il ciclista non ne fa parte siamo considerati come delle bestie. Purtroppo anche da utilizzare dal punto di vista del doping, mi sembra di capire, no? Cioè il doping fa parte, è una componente della vita del ciclista. Infatti quello che mi ha sempre colpito nel libro è che tu racconti e dici: eravamo curati, non dopati. Usi questo termine, curati, cioè curarsi bene per un ciclista vuol dire anche doparsi bene? Curati sì, perché comunque il fisico deve stare al 100% e il fisico non sta al 100% solo con il doping. Il fisico sta al 100% con tutto il resto, con gli allenamenti, con l'alimentazione, nel non fare tardi la sera. Sono tanti sacrifici che un ciclista, ma soprattutto un professionista di tutti gli sport fa tutti i giorni, perché il suo lavoro è quello di essere al massimo della condizione fisica e poi naturalmente, come ho detto, c'è una piccola parte che è anche il doping. Che però fa male, insomma. Ma come il libro è chiaro nell'indicare le responsabilità del sistema. Quando si parla di sistema si parla di una rete che comincia nell'individuazione del talento nella fase pre-professionista, sì, oppure dopo che si diventa professionisti, sono le squadre, sono i sostegni medici delle squadre, oppure individualmente a prescindere, e c'è un'ipocrisia generale da parte delle squadre. Il mondo che hai vissuto e in cui sei cresciuto fino a successi è un mondo che come funziona davvero per sistema? Chi è a casa cosa deve capire? Allora, io ho iniziato a correre quando avevo 8 anni e fortunatamente ho sempre vinto nelle categorie giovanili fino a quando poi sono arrivato professionista. E da professionista vincere era difficile, non era più facile come prima, e quindi a un certo punto sei un bivio e decidi o di fare il professionista al 100%, e questo 100% vuol dire anche doping, oppure scegli di fare un altro mestiere, oppure di fare il professionista magari non al tuo massimo, e questo un po', diciamo, per un atleta di vertice che poi non si sente più nel suo posto, ma il suo posto è un altro, cioè quello magari di un livello superiore, sceglie appunto di fare le sue scelte. Io ho scelto di fare il ciclista professionista e quindi ho scelto anche di fare uso di doping. Il sistema invece è un'altra cosa, cioè è tutto quello che ruota attorno al ciclismo, vale a dire l'Unione Ciclistica Internazionale, gli organizzatori delle grandi corse, le squadre, i direttori sportivi, le associazioni dei corridori, tutto questo è il sistema. Purtroppo in questo sistema il ciclista è l'ultima ruota del carro, cioè non è preso in considerazione. Non dovrebbe essere così, perché in tutti gli altri sport comunque l'atleta principale è quello che comunque ha la sua, può dire la sua, magari nel può... ciclismo no, nel ciclismo no, nel ciclismo però mi colpisce il ciclista dire, cioè... magari è sotto ricatto, sotto schiaffo. Tu parli di una ineluttabilità, cioè se vuoi fare il professionista devi doparti, a un certo punto arrivi come scelta consapevole e libera a dire o mi dopo o non vinco. Ma nelle grandi gare è così. Io ho vinto anche delle gare non da dopato, sicuramente gare minori, però quando vai a scontrarti poi al massimo livello nei grandi appuntamenti e con i più grandi campioni, lì devi essere a pari degli altri, altrimenti sei svantaggiato. Caro Oscar, a pari degli altri vuol dire in maniera molto chiara doparsi. Ma infatti il punto ed è quello che deve poi capire alla fine, ma secondo me ormai lo sa il tifoso, chi comunque segue sport, che non è chi vince, chi si dopa di più e perde quello che si dopa di meno. Vince quello più forte, sempre, comunque. Quando io ho vinto perché quel giorno ero più forte degli altri. Quando mi hanno battuto, perché ho trovato degli avversari che quel giorno erano più forti di me. Quindi non parliamo, e soprattutto noi che siamo degli atleti, non pensiamo che abbiamo perso perché l'altro è stato più dopato di te. Ti ha battuto perché è stato più forte. Era più forte. Ma questo sempre perché il ragionamento spiegato nel libro è alla base in realtà del talento, cioè la media dei tuoi risultati, ma dei picchi dei risultati, cioè quanto vinci nelle stragrandi, dipende più da quel 92-93% che è il tuo potenziale naturale in quanto macchina fisica, no? A cui si aggiunge poi una percentuale aggiuntiva che è effetto del doping. È chiaro che a chi è a casa e ha l'immagine standard dello sport in cui invece le sostanze chimiche non devono esistere, se esistono, esistono, che ci sono i cattivi che naturalmente il sistema identificherà ed espellerà con anticorpi potentissimi, perdonatemi di sorridere, però detto tutto questo, a loro fa un po' fatica a capire che il 93% resta comunque il fattore fondamentale, perché gli sembra un'escusatio, cioè dice vabbè, ma stai semplicemente giustificando il fatto che ti dopavi, gli altri non si dopano e adesso dici che non è decisivo. Se non è decisivo, perché lo prendevi per vincere, dici tu. Ma perché allora poi le squadre e le unioni internazionali cascono dal pelo? Perché devono salvaguardare una realtà dipinta e venduta come tale, sapendo che la verità non è assolutamente quella che vendono, è proprio così. Ma certo che così, loro comunque fanno parte, hanno in mano uno sport e non possono dire esattamente il contrario. Devono comunque tutelarsi come dovrebbero tutelarsi i ciclisti. Il punto è sempre lì, che gli altri sono tutelati, i ciclisti no. Però quello che vede l'appassionato di ciclismo, sì, o lo sportivo in televisione, che segue uno sport che è stato il più martoriato dal punto di vista di doping, secondo me non gli interessa più. Cioè, quello che vede in televisione, loro sanno, ed è la verità, che non stanno vedendo un film, cioè non stanno vedendo una corsa di ciclismo finta. Il ciclismo non è finto, quello che vedi in televisione è vero, quello che vince è perché è più forte, quello che arriva secondo o arriva ultimo è perché è stato meno forte del primo. Questo è il discorso, e ormai tutti lo sanno, i tifosi lo sanno, ma in tutti gli sport lo sanno che comunque quello che si vede in televisione è vero. Nel ciclismo le scommesse io non ne ho mai sentite parlare di dire combine, guarda di gara combine, certo, vinci tu perché magari ti do questo, non esiste. No, ma cioè... infatti il libro è anche un racconto poi della vita del ciclismo, della vita dei sacrifici, cioè è come si suol dire, se non sapete cosa vuol dire, io non lo so, per esempio fare 250 km al giorno sulla bicicletta, Danilo Di Luca lo racconta anche nel libro Una vita di sacrificio. Ovviamente potete chiamare, ci sono già tante chiamate all'800240024 se volete fare anche una domanda a Danilo Di Luca, Alessandra Carati, che tra poco sentiremo, che ha scritto il libro con lui. Vogliamo parlare di Vincenzo Nibali, ne parliamo perché Vincenzo Nibali è l'orgoglio italiano del ciclismo, in questo momento ha vinto il Giro d'Italia, ma quando tu denunciasti Danilo, dopo che sei stato radiato, dicendo... tutti i ciclisti sono dopati, o comunque molti dei ciclisti sono dopati, Nibali rispose così. Danilo è alla frutta e quindi non sa più cosa inventarsi pur di guadagnare 4 spiccioli. Mi dispiace dire questo perché è stato un grande compagno di squadra, però in questi ultimi tempi mi viene solo da pensare male che è diventato un po' celebroleso. Ah, siete stati compagni di squadra, appunto. Siamo stati compagni di squadra, sulla parola celebro reso da parte mia è stato querelato, giustamente, e per il resto lui comunque è un grande campione, senza ombra di dubbio. Quando nel 2007 io ho vinto il Giro d'Italia, lui correva con me con la Liquigas, era un mio gregario, io dissi che Nibali aveva le caratteristiche, le potenzialità per vincere un Tour de France. Però tu caso ha vinto un Tour de France, quindi vuol dire che comunque è un campione, ha vinto 4 grandi giri, e poi per il resto gli ho fatto anche arrivare la voce che magari dopo una tappa, perché lui era appena arrivato in una tappa, gli mettono il microfono in bocca e gli fanno una domanda, magari di ripensarci due volte prima di dire certe affermazioni. Però tu hai detto anche di recente che insomma non si può arrivare tra i primi 10 nel Giro d'Italia senza essere dopati. Questa dichiarazione l'hai fatta. Che dovremmo pensare vedendo i primi 10 in classifica del Giro d'Italia di quest'anno? Ma dovremmo pensare quello che ho sempre detto, che Nibali ha vinto il Giro d'Italia perché è stato più forte degli altri. E questo bisogna pensare. Nibali ha vinto 4 grandi corse a tappe perché... comunque in quei 4 giri due giri, un tour e una vuelta è stato il più forte e quindi se li ha meritati, cioè non c'è nulla da non dobbiamo fare uno più uno, quindi io dico la verità, dopo che ho letto il libro, quando Nibali a un certo punto, tutti ricordano, chi ascolta, anche chi non è appassionato di ciclismo, che Vincenzo Nibali insomma ha avuto questo grande scatto di rene nella parte finalissima del Giro, perché a un certo punto c'era la grande delusione. E io devo ammettere che nel mio cervello, quando ho letto sul giornale la dichiarazione che aveva reso a un certo punto in uno dei giorni più neri, mi sento a scarico di tutto, ho automaticamente detto... ecco, adesso non voglio dire cosa perché sennò mi espongo a qua. Lo so che non voleva dire quello. No, ma non è così proprio. Nibali, io ho visto quest'anno il Giro d'Italia. Sì. Nibali è partito e io lo davo come favorito per il Giro d'Italia insieme a Landa. E Landa poi è andato a casa perché è stato male e Nibali è partito male. È partito male perché non aveva la condizione. La condizione l'ha trovata strada facendo, l'ha trovato l'ultima settimana, gli ultimi giorni del Giro. È stato anche fortunato perché la maglia rosa è caduta. Altrimenti questo Giro d'Italia, secondo me, Nibali non l'avrebbe vinto comunque. Ma non l'avrebbe vinto non perché la maglia rosa attuale è più forte di Nibali, perché non aveva la condizione Nibali. Solo questo. Allora, facciamo 3 minuti di pubblicità, poi rientriamo gli ascoltatori, sentiremo Danilo Di Luca, Alessandra Carati. E mano al lanciafiamme, ovviamente. E mano al lanciafiamme. Vediamo se Danilo Di Luca vorrà utilizzare un po' un lanciafiamme anche questo libro. Beh, secondo me gli viene una telefonata a Palazzo Chigi, lo arruolano per la campagna del Premier. No, va bene, tra poco, state con noi. Allora, caro Oscar, qui in studio con noi c'è Danilo Di Luca, che ha scritto questo libro da ex ciclista, Bestie da Vittoria. E Alessandra Carati. E Alessandra Carati, che, alla quale infatti volevamo chiedere se è stato difficile scrivere, entrare anche nel mondo del ciclismo, un mondo che credo non conoscessi tu in modo approfondito, per raccontare dal di dentro questo sistema. Sì, è stato molto, molto difficile, perché all'inizio io non sapevo quasi niente del ciclismo, ed è stato anche molto difficile entrare nelle loro logiche, in realtà, perché per chi sta fuori dall'ambiente è quasi impossibile capire che cosa significhi per loro doparsi. Quando noi parliamo di numeri, 5-7%, sono dei numeri che a noi sembrano molto piccoli. In realtà sono dei numeri che poi fanno la differenza. Se pensiamo a quei 10 ciclisti che stanno al vertice e che vincono davvero spessissimo di misura, sia nelle classiche sia poi nei grandi giri. Quindi in realtà quella fetta che a noi sembra molto ridotta, no, di performance migliorata, certo, diciamo, in realtà fa la differenza, è significativa e a volte è decisiva. E quando si vincono i Giri d'Italia per 5, 10, 15 secondi, è chiaro, su migliaia di chilometri è assolutamente decisiva. Sì, poi è verissima la cosa che diceva Danilo, scusale, sul discorso dell'integrazione alla preparazione. Cioè, è vero che il doping non è la bacchetta magica, è semplicemente è una parte della preparazione. Quindi nel libro noi molto spesso scriviamo: quando non sei fisicamente in condizione, il doping ti ingolfa, quindi a volte fa l'effetto contrario. Per cui non è la scorciatoia. Quando un ciclista pensa, quando uno sportivo pensa alla sostanza, non la pensa in relazione a prendere una scorciatoia per l'allenamento. Il ciclista è sempre al 100%, è sempre tiratissimo 300 giorni l'anno, sia quando si allena ed entra in condizione, sia quando poi è al top della condizione, a quello che noi chiamiamo il picco di forma, dove può rendere la performance al 100%. Però è molto difficile entrare nella logica della testa di uno sportivo in relazione all'uso della sostanza. Questo è molto difficile. Però devo dire, Alessandro, che nel complesso, che non è ovviamente, lo sappiamo, ma va ripetuto sempre, un campione statistico rappresentativo, ma tra quelli che ci mandano opinioni, e ce ne sono anche tanti, forse più di quello che immaginassi. Io penso sempre che la prima reazione è quella più di pancia, un po' più ipocrita, c'è la condanna, però ce ne sono tante che mi colpiscono. Qui per esempio c'è un ascoltatore che dice: ma io ho dovuto correvo in bici fino a 16 anni, poi ho dovuto, dice tra virgolette, smettere per la questione di cui state parlando, ed è inutile, dice, far finta di fare gli ipocriti e di negarla. E ci sono diverse testimonianze di questo tipo, più di quanto mi aspettassi. Ma infatti vogliamo sentire anche qualche ascoltatore, possono fare domande a Danilo Di Luca, che è qui con noi. Fabio ci chiama da Firenze. Buongiorno, Fabio. Sì, buongiorno. No, io volevo solo far notare una cosa, che la media in cui viene corsa la Milano-Sanremo è circa uguale a quello che è stato il record dell'ora di Coppi. Punto e basta. Com'è possibile fare da Milano-Sanremo a quelle medie, alla velocità in cui risponde Danilo Di Luca? Quante ne hai fatte di Milano-Sanremo? Ne ho fatte 7-8. Ma guarda, la media non lo fa il doping, la media la fanno i corridori, nel senso che dipende da come si imposta la gara. Ci sono delle gare, e dove la Milano-Sanremo presta questo, perché è un percorso facile, abbastanza facile, a parte la distanza di 300 km, ma per il resto è abbastanza facile, dove dalla partenza all'arrivo si va tutta. Quando si va tutta, si fanno le medie alte, soprattutto su un percorso difficile. Però l'ascoltatore diceva, si fa la media oggi, che veniva fatta da Coppi. Sì, ma Coppi l'ha fatta da solo al record dell'ora. In gruppo è tutta un'altra cosa. Dipende come si imposta la gara. Poi Coppi correva con la bicicletta che pesava 10 kg, 12. Oggi ci sono delle biciclette in carbonio, con dei materiali, delle ruote in carbonio. Tutto diverso. È tutto diverso. Ma non è... la media conta poco. La media la fanno i corridori. Sentiamo Alberto da Monza. Buongiorno, Alberto. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Milan. Eccoci. Buongiorno Giannino e Danilo. Allora, la mia domanda è semplicissima: il doping lo utilizzano i professionisti e d'automatico e di riflesso lo utilizzano gli amatori, perché poi vai a vedere le gran fondo meno c'è dentro di quegli spiritati che non stanno in cielo né in terra. Quello che invece mi fa meraviglia è perché quando c'è un corridore che via in fuga che sta pedalando bene, che probabilmente ci sta mettendo del suo perché è un gregario, perché è un qualcuno che deve stare attento al suo capitano e probabilmente non è né forte né pronto né preparato e né doppato come suo capitano, e questo lo fermano e lo fanno tornare indietro. E poi il doping economico, perché si sa benissimo che lo sponsor punta sulla figura del capitano e quindi interessi e tutte quelle cose lì. Vabbè, lasciamo stare la prima parte di strategia ciclistica che magari interessa più gli appassionati. Sul doping economico, non so Danilo, cioè forse fa parte di quel sistema che denunci nel libro? Ma quando comunque si corre, ognuno corre per vincere. La squadra che ti paga perché ti offre un contratto comunque vuole che tu vinci, altrimenti prenderebbe un altro corridore o ti pagherebbe di meno. Quindi naturalmente è tutto relazionato poi rispetto a quello che è all'ingaggio di un singolo atleta. Quando si ferma un corridore è solo tattica, prima c'era molta più dittatura, all'epoca di Moser e Saronni, quello che succede oggi nel ciclismo non succedeva, cioè ci sono degli episodi che davvero ti mandavano a casa, oggi è molto più, tutto molto più libero. Ovviamente Danilo arrivano tante critiche anche di chi dice, perché non hai denunciato prima? È comodo farlo adesso che perché non ero radiato, perché facevo parte del mio mondo, facevo parte del mondo del ciclismo. Se avessi fatto un libro del genere, una denuncia del genere, il giorno dopo mi mandavano a casa. Quindi quando io, ripeto, ho scelto di fare il ciclista o comunque di fare il professionista, ho scelto di fare il mio mestiere al 100%. Fin quando ho fatto il mio mestiere e sono stato dentro le regole del sistema. Però qui qualcuno potrebbe accusarti di ipocrisia, perché dice finché ci stavo nel sistema va bene, ora che ne sono uscito denuncio. E peraltro non fai i nomi, cioè tu non dici mai. Ma l'ipocrisia secondo me si vede da quello, innanzitutto che non faccio nomi, non l'ho mai fatto, nonostante l'Unione Ciclistica Internazionale, dopo la radiazione ingiusta, perché la radiazione si prende dopo 3 squalifiche, non dopo 2, e mi hanno chiamato parecchie volte per confessare, fare i nomi. Io ho detto i nomi io non li faccio, quindi da voi a Losanna non ci vengo neanche, mi sto a casa mia. Quindi questa secondo me è ipocrisia, nel senso, se io avessi fatto i nomi di altre persone, io parlo di me stesso nel mio libro e non mi interessa fare nomi. E soprattutto l'ho fatto perché dopo la radiazione ingiusta me ne hanno dette di tutti i colori. Quindi io ero l'appestato, l'unico dopato, quello che davvero doveva essere scaricato. E allora ho detto, ma poi allora, davvero come sono le cose. Terrei anche presente il contesto, cioè questo libro e le dichiarazioni, la ricostruzione di un sistema, di una storia che fa Danilo. Leggiamola anche nel contesto di quello che sta capitando nel fenomeno sport olimpico, in vista delle Olimpiadi, tutte le discipline di fronte come ad anni e anni di chiacchiere, eccetera, eccetera. Si arriva poi ad avere raffiche di medaglie in cui, no, sui test, tutto per anni mascherato. Allora, o non vogliamo vederla questa realtà che riguarda un mucchio di discipline e un mucchio di campioni a livello internazionale, come si vede, eccezioni non mi pare di vederne sulla carta geografica, e ne parliamo esplicitamente, o altrimenti se prendiamo chi ne parla come se fosse un marziano che scende da un altro sistema, vuol dire che forse l'ipocrisia è un po' in questa reazione, secondo me. Ecco, quello che temo è questo. Dietro poi, a livello di Comitato Olimpico, ci sono grandi interazioni internazionali. Cioè, è chiaro che noi abbiamo aspettato per mesi, per 3 mesi, se la Sharapova veniva davvero squalificata per 2 anni o meno. Hanno capito tutti che dietro c'erano interessi che riguardavano la politica mondiale, perché era evidente che anche un fesso non poteva credere alla sua dichiarazione che aveva detto, ma questo farmaco me lo prescrive il mio medico ordinario. Tra l'altro nel libro e anche nelle interviste tu, Danilo, dici che c'è un modo per combattere il doping se si vuole. Qual è? Se si vuole veramente. Ma ce n'è più di uno. Quello diciamo più che mi viene in mente, che mi è sempre venuto in mente subito, è quello di mettere un tracciante sui farmaci. Basta che le cause farmaceutiche mettessero un tracciante sui farmaci e finisce il doping, ma non nel ciclismo. Perché si sa chi lo prende, chi lo utilizza. Nessuno farà più utilizzo di doping, perché con l'antidoping ti scoprono e quindi finirebbe il doping nel mondo dello sport. Oppure, come fanno in America in alcuni sport, bisognerebbe liberalizzarlo. Qui però c'è un problema, la salute. La salute. Perché sì. Poi qui c'è sempre quello che esagera e si fa male. Il doping non è che faccia bene, il doping fa male. Però io posso chiedere a chi, di spieghi un secondo meglio a chi è a casa. Quindi la parte della prima risposta, cioè basterebbe rendere più penetranti gli obblighi di tracciabilità per le case farmaceutiche e i farmaci, significa che a oggi è possibilissimo con le norme attuali ancora, tra virgolette, farla franca, mascherarlo, è possibile? Ma l'antidoping ha fatto dei grandissimi passi avanti, ma il doping è sempre avanti all'antidoping, di poco, però è sempre avanti. È avanti, un passo avanti. E soprattutto nel ciclismo è ancora più difficile, perché comunque è lo sport più controllato al mondo, e quindi oggi è sempre più difficile, però... Però è possibile. È possibile. Noi abbiamo ancora un minuto, ci chiedono tantissime domande, per esempio i motorini nel ciclismo, che per te è il vero doping. Questo è un vero doping ed è scandaloso, perché il motorino non ti fa aumentare la prestazione dal 5 al 7%, ti fa aumentare la prestazione dal 30 al 40%. Quindi un brocco vince il Giro d'Italia. Con il doping è impossibile. Con il doping no. Alessandra Carati, quando sono andato alla presentazione alla domanda ma Danilo Di Luca come lo descriveresti, credo che, ma con molto affetto, rispose un cretino, no? Credo un cretino questo. Sì, ho risposto un cretino. Ma un cretino perché quando io l'ho incontrato lui era appena stato radiato, era molto arrabbiato e lui sentiva, secondo me, di essere davvero additato come la mela marcia, l'appestato, e questa cosa è stata la spinta più forte per lui per raccontare tutto quello che c'è nel libro, che poi quando lui parla di sistema in modo, non voglio dire generico, però allargato, nel libro ci sono molte indicazioni precise sul funzionamento di questo sistema, a partire dalle protezioni che anche lui ha avuto nel 2005 quando è stato chiamato dal medico della squadra che gli ha detto le analisi non sono a posto, mettiti a posto, perché in quel caso non è stata denunciata la positività. Perché la positività? Perché ed in quel caso c'era sia il medico della squadra sia il medico dell'USEI. Uh-huh. Quindi non è stata una decisione della squadra, è stata una decisione della squadra in collaborazione con l'ente che avrebbe dovuto controllare. Cioè. Per cui non è che Danilo addita un sistema generale o semplicemente cerca di non assumersi la responsabilità di quello che ha fatto. Diciamo che ci sono delle tessere precise che danno chiaramente l'idea a chi legge di qual è il livello di compenetrazione tra regolatori e... Comunque, il libro, se lo volete, compratelo. È un libro che tra l'altro è alto in classifica, e perché poi tutte le critiche si possono fare, però secondo me conoscere, poi fa tutte le critiche del caso. Danilo Di Luca, Bestie da Vittoria, editore PM, ovviamente vi ringraziamo per essere stati qui a 24 Mattino. Grazie. Grazie a voi. E ragazzi, attenti oggi per le strade, se c'è uno con lanciafiamme...